Ehi, signor Weston, è mai tornato a vederla? Sì, molte volte. E da quando i miei occhi sono così malati, siede e legge per me mezz'ora. Ma lei sa, signorina, che ha altre persone da vedere e altre cose da fare. Dio lo benedica. E che bella predica ha tenuto la domenica dopo. I versetti citati erano: Venite a me voi tutti che siete affaticati e pesantemente caricati, e io vi darò riposo. E i due santi versetti che seguono. Lei non c'era, signorina. Era allora con i suoi parenti, ma mi ha resa così felice. E ora sono felice, grazie a Dio. E ora provo piacere nel far qualche lavoruccio per i miei vicini, per quel che è capace una povera vecchia ridotta mezza cieca. Ed essi li accettano, riconoscenti, proprio come lui diceva. Vede, signorina, che ora sto lavorando a un paio di calze? Sono per Thomas Jackson. È un vecchio bislacco, abbiamo avuto molte questioni per una sciocchezza e qualche volta abbiamo proprio litigato, così che non potevo fare nulla di meglio che lavorargli un paio di calzette calde. E ho capito che sente molta più simpatia per me, povero vecchio, da quando ho cominciato. Avviene proprio come dice il signor Weston. Bene, sono contenta di vederla così felice, Nancy, e così giudiziosa. Ma ora devo andare, avranno bisogno di me al castello, dissi e salutatala. Partii promettendole di ritornare quando avessi tempo e sentendomi felice quasi quanto lei. Un'altra volta andai a leggere a un povero operaio che era all'ultimo stadio della tisi. Erano state a vederlo le signorine, avevano lasciato cadere una vaga promessa di andare da lui per la lettura, ma era troppo fastidio e così pregarono me di andare in loro vece. Andai abbastanza volentieri. E anche là mi sentii rintronata da lodi del signor Weston, sia dall'ammalato che da sua moglie. L'ammalato mi disse che traeva grande consolazione e beneficio dalle visite del nuovo coadiutore, che veniva a vederlo spesso e che era un altro genere di persona del signor Hatfield, il quale, prima che arrivasse l'altro a Horton, gli aveva fatto solo di tanto in tanto qualche visita. In quelle occasioni aveva sempre insistito perché tenessero spalancata la porta di casa per immettere aria fresca per il proprio comodo, senza considerare se potesse far male all'ammalato, e apriva il suo libro di preghiere, leggeva velocemente un pezzo dell'orazione per gli ammalati e poi scappava via. E se si fermava era per somministrare una ramanzina all'afflitta consorte o per fare qualche osservazione irriflessiva o dura, col risultato di accrescere piuttosto che diminuire gli affanni della desolata coppia. Invece, disse l'uomo, il signor Weston prega con me in un modo del tutto diverso e mi parla come fossi un suo parente e spesso mi fa anche la lettura e mi siede accanto come fosse mio fratello. Verità sacrosanta, esclamò sua moglie. E 3 settimane fa, quando vide che il povero Nino tremava di freddo e che fuoco miserevole c'era, chiese se stavamo per finire la provvista di carbone. Gli dissi di sì, che eravamo mal partito per acquistarne dell'altro, ma vede, signorina, non pensavo che volesse aiutarci. Comunque, il giorno appresso ci mandò un sacco di carbone. E da allora avemo un bel fuoco, che è una grande benedizione in questa stagione invernale. Ma è il suo modo di fare, signorina Gray. Quando viene a visitare un malato, fra la povera gente, osserva quello di cui hanno bisogno. E se crede che quelli non se lo possono facilmente procurare da loro, non ne parla lì per lì. Ma gliela compera. E non è da tutti agire così, considerato il poco che ha, perché sa che per vivere non ha che quel poco che gli dà il parroco, e questo è ben poco, dicono. Ricordai allora, con una specie di trionfo, che era stato spesso definito come un volgare cretino dall'amabile signorina Murray, perché portava un orologio d'argento e i suoi vestiti non erano eleganti e nuovi come quelli del signor Hatfield. Ritornando a casa mi sentii molto felice. E ringraziai di avere ora qualche cosa a cui pensare, qualcosa per rompere la pesante monotonia, la solitudine mesta della mia vita attuale, perché sì, ero malinconica. Mai da mesi, da anni, ad eccezione dei brevi intervalli di vacanza trascorsi a casa, avevo incontrato una persona a cui potessi aprire il mio cuore o parlare liberamente delle mie opinioni, con la speranza di ottenere simpatia o anche solo comprensione. Mai nessuna. A meno che contassi la povera Nancy Brown, con la quale potessi intrattenermi un momento amichevolmente, o la cui conversazione fosse atta a rendermi migliore, più saggio, più felice, o che mi desse l'impressione di poter trarre qualche vantaggio dalla mia. I miei unici compagni erano stati dei bambini antipatici e ignoranti e delle ragazze scervellate, dinanzi alla cui spossante follia la solitudine assoluta era spesso il sollievo più desiderato e più apprezzabile. Ma essere ridotte a tale compagnia era un danno serio, sia per i suoi effetti immediati che per le conseguenze che probabilmente ne sarebbero derivate. Mai pensieri nuovi ed eccitanti mi venivano dall'esterno. E quelli che sorgevano dentro di me erano per lo più miseramente soffocati all'istante o condannati a spegnersi e a morire perché non riuscivano a vedere luce. Si sa che i compagni abituali esercitano una grande influenza sullo spirito e sulla condotta reciproca. Le persone che abbiamo di continuo sotto gli occhi, che sentiamo sempre parlare, ci portano inevitabilmente, anche involontariamente, per gradi, sia pur lenti e impercettibili, ad agire e parlare come loro. Non pretendo stabilire fino a che punto giunga irresistibile il potere di assimilazione, ma se un uomo civile è condannato a passare una dozzina di anni in mezzo a dei bruti selvaggi, a meno che abbia la capacità di migliorarli, al termine di quegli anni non sarà anche lui diventato selvaggio. Così io, poiché non avevo potuto migliorare i miei alunni, temevo fortemente che loro avessero peggiorato me. E che avessero portato a poco i miei sentimenti, le mie abitudini, le mie capacità al loro livello, senza pertanto darmi la loro spensieratezza e vivacità. Già avevo l'impressione che l'intelletto mi si deteriorasse, che il cuore mi si inaridisse, l'anima mi si intristisse, tremavo a vedere indebolirsi in me la sensibilità morale, la distinzione fra bene e male confondersi e tutte le mie migliori facoltà perire sotto l'influenza perniciosa di simile sistema di vita. Gli spessi vapori della terra si sollevavano intorno a me e oscuravano il mio cielo interiore. E così fu che il signor Weston sorse finalmente sul mio orizzonte come la stella del mattino per salvarmi dalla paura delle tenebre più profonde e mi rallegrai di avere ora un oggetto di contemplazione che fosse superiore e non inferiore a me. Ero contenta di trovare che il mondo non era tutto fatto di Bloomfield, Murray, Hatfield, Ashby, eccetera, e che la superiorità umana non viveva semplicemente nell'immaginazione. Quando sentiamo di una persona qualcosa di bene e nulla di male, è facile e allettante immaginarne ancora di più. In breve, non è necessario analizzare tutti i miei pensieri, ma ora la domenica era diventata per me una giornata di godimento particolare. Entravo ora quasi con slancio nell'angolo posteriore della carrozza perché mi piaceva sentirlo parlare, mi piaceva anche vederlo, benché vedessi che nell'aspetto esteriore non era bello e neppure quel che si dice piacevole, ma certamente non era brutto. Era alto un poco, molto poco, al di sopra della media. I tratti del viso si sarebbero potuti trovare troppo angolosi per essere belli, ma a me dimostravano fermezza di carattere. I capelli, castano scuri, non erano arricciati con cura come quelli del signor Hatfield, ma semplicemente spazzolati al lato di una fronte ampia e bianca. Le sopracciglia erano troppo sporgenti, ma al di sotto di quelle ciglia scure scintillavano degli occhi scuri di potenza singolare, non grandi, un poco infossati, ma straordinariamente espressivi. Esprimeva carattere anche la sua bocca, qualcosa che denotava un uomo di fermi propositi e abituato a pensare. E quando sorrideva, ma non parliamone ancora, perché fino allora non l'avevo ancora visto sorridere. E veramente l'insieme del suo aspetto non mi dava l'idea di un uomo che ridesse molto spesso, né come me l'avevano descritto i contadini. M'ero già da tempo formata un'opinione su di lui, e nonostante le critiche della signorina Murray, ero profondamente convinta che fosse un uomo di forte sentimento, di fede salda e di pietà ardente, ma riflessivo e savio, e quando scoprii che alle altre qualità buone si doveva aggiungere una sincera bontà e una grande dolcezza, la sorpresa mi fece ancor più piacere perché non me l'aspettavo. Capitolo 12. L'acquazzone. Feci una nuova visita a Nancy Brown nella seconda settimana di marzo, perché raramente potevo contare su un'ora tutta a mia disposizione, benché risparmiassi molti minuti durante la giornata. Ove ogni cosa era lasciata al capriccio della signorina Matilde e di sua sorella, non poteva esserci né ordine né regolarità. Qualunque lavoro scegliessi, anche se non ero effettivamente occupata con loro e per loro, dovevo tenere la cintura ai lombi, come si dice, le scarpe ai piedi e il bordone pronto in mano. Perché non arrivare immediatamente quando si era chiamati era considerata una colpa grave e imperdonabile, non soltanto dalle mie allieve e dalla madre, ma perfino dalla domestica che arrivava ansante gridandomi: Signorina, vada nella sala studio, ma subito, le signorine attendono. Quale delitto! Le signorine attendono la governante. Ma questa volta ero quasi sicura di avere un'ora o due a mia disposizione. Perché Matilde si stava preparando per una lunga cavalcata e Rosalia si vestiva per pranzare dalla signora Ashby. Così approfittai dell'occasione per recarmi in casa della vedova, che trovai preoccupata per la gatta, che era stata assente tutto il giorno. La consolai con tutti gli aneddoti che potei ricordare sulle abitudini girovaghe di quell'animale. «Ho paura dei guardacaccia», disse. «È questo quel che penso». Se i giovani signori fossero stati a casa, penserei che le abbiano lanciato dietro i cani e che questi l'abbiano sbranata, povera bestia, come è successo con tanti poveri gatti, ma non temo questo per ora. Gli occhi di Nancy stavano meglio, ma erano ancora lontani dalla guarigione. Aveva tentato di cucire per la domenica una camicia per suo figlio, ma mi disse che riusciva solo a farne un pezzettino alla volta, così che quella progrediva lentamente, benché il povero ragazzo ne avesse proprio bisogno. Così, dopo averle fatto un po' di lettura, mi offrii di aiutarla approfittando che quella sera avevo molto tempo a disposizione. E non avrebbero avuto bisogno di me fino a tardi. Ella accettò l'offerta con entusiasmo e mi farà anche un po' di compagnia, signorina, disse. Mi sento così sola senza la mia gatta. Quando ebbi terminato di leggere e fatto la metà di un orlo con il grande ditale di ottone di Nancy, che adattai al mio dito mediante una strisciolina di carta, fui interrotta dall'ingresso del signor Weston, che portava la gatta fra le braccia. Vidi ora che sapeva sorridere anche molto simpaticamente. «Le ho fatto un buon servizio, Nancy», egli cominciò. «Poi, scortami», diede segno di accorgersi della mia presenza con un lieve inchino. Sarei stata invisibile per Hatfield o per qualunque altro signore della contrada. Ho salvato la spagatta dalle mani, o meglio, dal fucile del guardacaccia del signor Murray. Oh, Dio la benedica, signore! Gridò la vecchia riconoscente, pronta a piangere di gioia non appena ricevette dalle sue braccia la bestiola prediletta. Ne abbia cura, disse, e non la lasci andare vicino al recinto dei conigli, perché il guardacaccia ha giurato che sparerà se la vede di nuovo. E l'avrebbe ammazzata oggi stesso se non avessi fatto in tempo a fermarlo. Credo che si sia messo a piovere, signorina Grey, aggiunse con più calma, notando che avevo messo da parte il mio lavoro e stavo preparandomi ad andarmene. Non si incomodi, mi fermerò 2 minuti. Vi fermerete tutti e due finché non sarà finito questo acquazzone, disse Nancy attizzando il fuoco e avvicinando un'altra sedia. Oh, c'è posto per tutti. Vedo meglio stando qui, grazie, Nancy. Risposi io, accostandomi col lavoro alla finestra, dove ebbe la bontà di lasciarmi tranquilla, mentre toglieva con la spazzola i peli del gatto dalla giacca del signor Weston e gli asciugava premurosamente il cappello senza smettere un momento di parlare, ora ringraziando l'amico coadiutore per la gentilezza che le aveva fatto, ora chiedendosi con stupore come la gatta avesse potuto sfuggire dal recinto dei conigli e ora rattristandosi per le eventuali conseguenze di tale scoperta. Egli ascoltava con un sorriso placido e benevolo e finì col sedersi per compiacere all'invito pressante di lei, pur ripetendo che non aveva intenzione di fermarsi. «Devo andare in un altro posto», disse. «Vedo intanto», e osservava il libro sul tavolo, «che c'è stato qualcun altro a farle la lettura». «Oh, sì, signore, la signorina Grey è stata così buona da leggere un capitolo e ora sta aiutandomi a cucire una camicia per il mio Bill». Ma ho paura che là sentirà freddo. Non vuole avvicinarsi al fuoco, signorina? No, grazie, Nancy. Devo andare non appena sarà cessato l'acquazzone. Oh, signorina, mi disse che. Oh, signorina, mi disse che poteva fermarsi fino a sera, gridò la donna impertinente, e il signor Weston prese il cappello. No, signore, esclamò lei, la prego di non uscire proprio ora che piove così forte. Ma. Mi accorgo che tengo la sua visitatrice lontana dal fuoco. No, non è per lei, signor Weston, risposi sperando che non fosse un male dire quella bugia. Certamente no, gridò Nancy. Beh, c'è una quantità di spazio. Signorina Gray, egli disse in tono mezzo scherzoso, come se sentisse che era necessario cambiare argomento, avesse o no qualcosa di importante da dire. Vorrei che dallo Squire, quando lo vede, ottenesse la pace per me. Era presente quando salvai la gatta di Nancy e non approvò affatto il gesto. Gli dissi che era meno importante che rinunciasse lui a tutti i suoi conigli che Nancy al suo gatto. Alla mia audacia rispose con un linguaggio piuttosto brutale e temo di averlo contrastato con troppo calore. Oh, che animo giusto! Spero che per amore della mia gatta non si sia fatto nemico il padrone. Non può tollerare che gli si risponda. Assolutamente. Oh, non si agiti, Nancy. In fondo non me ne preoccupo. Non gli ho detto nulla di veramente sgarbato e suppongo che il signor Murray sia abituato a usare un linguaggio un po' forte quando è in collera. Eh sì, signore, è un peccato. E ora devo proprio andare. Devo fare una visita a una casa distante 1 miglio da qua e non vorrà che ritorni di notte. Poi ormai ha quasi smesso di piovere così. Buonasera, Nancy. Buonasera, signorina Gray. Buonasera, signor Weston. Ma non conti su di me per metter pace col signor Murray perché non lo vedo mai, quindi non posso parlargli. No? Non c'è rimedio allora, rispose in tono afflitto. Poi con un sorrisetto tutto particolare aggiunse. Ma non importa, penso che ha più ragione di scusarsi lo squire di me. E uscì. Io continuai l'orlo finché ci si vide e poi diedi la buonasera a Nancy, frenando la sua gratitudine troppo vivace, assicurandola che non facevo per lei che quello che lei avrebbe fatto per me se avessimo scambiato posto. Mi affrettai a ritornare a Horton Lodge, dove, entrata nella sala studio, trovai la tavola del tè nel massimo disordine, la bevanda rovesciata sul vassoio e la signorina Matilde dell'umore più atroce. Signorina Gray, dove è stata? È mezz'ora che hanno servito il tè e ho dovuto prepararlo da me e berlo da sola. Avrei voluto che tornasse prima. Beh, sono stata a vedere Nancy Brown. Credevo che non fosse ancora tornata dalla sua passeggiata. Come potevo cavalcare sotto la pioggia? Mi piacerebbe saperlo. Quella dannata pioggia ha dirotto. È stata abbastanza dispettosa da venir giù proprio sul più bello del giro. E poi tornare e non trovare nessuno per il tè. Lei sa che non so preparare il tè come mi piace. Ah, non avevo pensato all'acquazzone, risposi, e veramente il pensiero che potesse essere tornata a casa non mi era saltato in mente. No. Naturalmente, siccome lei era al riparo, non ha pensato agli altri. Sopportai i suoi maligni rimproveri con meravigliosa serenità, perfino con allegrezza, persuasa di aver procurato più bene a Nancy Brown che male a lei. E forse qualche altro pensiero sosteneva il mio spirito e dava gusto alla tazza di tè freddo e sovraccarico, attrattiva alla tavola in disordine e, starei quasi per dire, al viso poco cordiale della signorina Matilde. Ma immediatamente la si recò nelle stalle e mi lasciò godere il mio pasto, tranquilla e sola. Capitolo 13. Le primule. La signorina Rosalia ora andava sempre 2 volte al giorno in chiesa perché amava tanto essere oggetto di ammirazione che desiderava non perdere alcuna occasione di procurarsela. Ed era così sicura di riscuoterla ovunque si mostrasse che, presenti o no Harry Meltham o il signor Green, c'era sempre qualcuno che non era insensibile al suo fascino, oltre al parroco, che era obbligato a essere presente a causa delle sue funzioni. E poi, se il tempo lo permetteva, sia lei che sua sorella solevano tornare a casa a piedi. Matilde perché detestava di rimanere imprigionata nella carrozza. Rosalia perché non amava l'isolamento della vettura e godeva della compagnia che generalmente animava il primo miglio della passeggiata dalla chiesa ai cancelli del parco del signor Green. Qui aveva inizio la strada privata che portava a Horton Lodge, situata in direzione opposta, mentre la strada maestra conduceva direttamente all'abitazione più distante di Sir Hugh Meltham. Così c'era sempre la possibilità di essere accompagnate fin là o da Harry Meltham con o senza la signorina Meltham, o da signor Green con una o anche le due sorelle, o qualche signora loro ospite. Dipendeva dal capriccio delle signorine decidere se dovessi andare a piedi con loro o in carrozza coi genitori. Se desideravano prendermi, andavo. Se per ragioni note soltanto a loro preferivano andar sole, prendevo posto in carrozza. Per me preferivo far la strada a piedi, ma la riluttanza a infastidire con la mia presenza qualcuno che non la desiderava, Mi teneva passiva in queste occasioni e in altre simili. Non indagavo mai le cause delle loro fantasie. E questa era davvero la politica migliore, perché sottomettermi e obbedire era la parte della governante, seguire il proprio piacere, quella delle allieve. Ma quando andavo a piedi, la prima metà della passeggiata in genere era per me una gran pena. Siccome nessuno delle signore e signori già nominati si accorgeva mai della mia esistenza, non era simpatico camminare al loro fianco come se volessi ascoltare quel che dicevano o desiderassi d'essere presa per una di loro. E se nel discorrere lasciavano cadere gli occhi su di me, pareva che guardassero nel vuoto come se o non mi vedessero o ci tenessero che così apparisse. Non era simpatico neanche camminare dietro e in tal modo confessare che riconoscevo la mia inferiorità, poiché mi consideravo una persona da bene, su per giù, come i migliori di loro, e desideravo che lo sapessero e non pensassero che mi consideravo una semplice domestica che conoscesse troppo bene il suo lavoro e il suo posto per camminare a fianco di signore e signori distinti come loro, nonostante le signorine Murray gradissero tenere questa persona con loro e si degnassero perfino di conversare con essa quando non avevano a disposizione altra compagnia. Così, ho quasi vergogna a confessarlo, non mi dava poco imbarazzo se andavo con loro il cercare di sembrare perfettamente estranea, come se fossi tutta assorbita nei miei pensieri o nella contemplazione degli oggetti circostanti, oppure se rimanevo indietro erano un uccello, un insetto, un albero o un fiore che attiravano la mia attenzione e dopo averli opportunamente esaminati, proseguivo da sola il cammino a passo lento fino a che le mie allieve non avessero salutato i loro compagni e voltato per la tranquilla strada privata. Ricordo in modo particolare una di queste passeggiate. Era un pomeriggio tiepido verso la fine di marzo e il signor Green e le sorelle avevano mandato indietro la carrozza vuota per godere del sole e dell'aria balsamica. Durante il tragitto verso casa, in compagnia dei loro ospiti e delle signorine Murray, che naturalmente erano riuscite a unirsi a loro. Quella compagnia era molto gradita a Rosalia, ma non era altrettanto di mio gusto, così che subito rimasi indietro e cominciai a cercare erbe e insetti lungo gli argini verdi e le siepi in boccio fino a che la comitiva mi ebbe preceduta di parecchio e potei udire il dolce canto dell'allodola. Allora la mia misantropia cominciò a liquefarsi sotto l'influsso dell'aria pura e del tepore del sole. Ma al loro posto sorsero i tristi pensieri della mia prima infanzia e l'aspirazione verso gioie passate o verso un futuro più felice. Mentre il mio occhio vagava sulla scarpata rivestita di erba fresca e di piante rivestite di nuove foglie e sovrastata da siepi in boccio, provai un forte desiderio di un fiore familiare che mi richiamasse le vallate boscose o i verdi fianchi collinosi del mio paese. Di nere paludi, naturalmente, neppure parlarne. Una scoperta simile mi avrebbe riempito gli occhi di pianto. Alla fine scoprii in alto, fra le radici contorte di una quercia, tre graziose primule che occhieggiavano dal loro nascondiglio, così deliziose che la loro vista subito mi fece sgorgare le lacrime dagli occhi. Ma spuntavano tanto in alto che tentai invano di raccoglierne un paio per poterci fantasticare sopra e portarle via con me. Non potevo raggiungerle a meno di arrampicarmi sull'argine, impresa a cui rinunciai, poiché in quel momento udii dei passi dietro di me e stavo per allontanarmi, quando trasalì a una voce grave e ben nota che diceva: «Mi permetta, signorina Grey, di raccoglierle io». I fiori furono immediatamente raccolti e in mano mia. Naturalmente era il signor Weston, chi altro si sarebbe disturbato tanto per me. Lo ringraziai, se con calore o con freddezza non posso dire, ma certo non espressi la metà della gratitudine che provavo. Era forse una sciocchezza sentire della gratitudine, ma in quel momento mi pareva che questo gesto fosse una prova notevole della sua benevolenza, una gentilezza che non avrei mai potuto ricambiare. Ma non avrei dimenticato, tanto poco ero abituata a ricevere delle cortesie, tanto poco preparata ad aspettarle da qualcuno per 50 miglia da Horton Lodge. Pure ciò non mi impedì di sentirmi un po' a disagio in sua presenza e ricominciai a camminare per raggiungere le mie allieve con passo più veloce, benché fosse più tardi, mi sarebbe rincresciuto se il signor Weston mi avesse lasciata andare avanti senza dirmi un'altra parola. Ma così non avvenne. Un passo alquanto rapido per me era per lui solo un passo ordinario. Le signorine l'hanno lasciata sola? Disse. Eh sì, sono occupate con una compagnia più piacevole. Allora non si affanni a raggiungerle. Rallentai il passo, ma un momento dopo me ne pentii. Il mio compagno non parlava e io non trovavo assolutamente nulla da dire e temevo che gli fosse nelle mie stesse condizioni. Alla fine ruppe il silenzio per chiedermi, con una ruvidezza pacata tutta sua particolare, se mi piacevano i fiori. Oh sì, moltissimo, risposi, specialmente i fiori selvatici. Anch'io amo i fiori selvatici. Gli altri mi interessano poco perché non mi evocano ricordi, eccetto uno o due. Quali sono i suoi fiori preferiti? Oh, le primule, le campanule, i fiori della landa. Le violette no? No, perché, come dice lei, non evocano ricordi. Perché sulle colline e nelle valli intorno a casa mia non ci sono violette. Deve essere molto confortante per lei, signorina Gray, avere una casa. Osservò il mio compagno dopo una breve pausa. Benché sia lontano e ci vada di rado, è sempre qualcosa a cui mirare. Oh, mi è tanto cara che credo di non poterne vivere senza, risposi con un calore di cui mi pentii immediatamente per paura di parer sciocca. Oh, può sì, rispose con un sorriso di malinconia. I legami che ci uniscono alla vita sono più saldi di quel che lei immagina. E chi non sa quanto possono essere tirati senza che si rompano. Senza casa sarebbe infelice, ma continuerebbe a vivere e anche non tanto infelicemente come suppone. Il cuore umano è come la gomma elastica. Un piccolo sforzo l'allunga, ma uno grande non lo spezza. Se poco più di nulla lo può turbare, poco meno che tutto non potrà bastare a romperlo. Come nelle membra esteriori del nostro corpo, c'è un potere vitale che gli è insito e lo rafforza contro la violenza esterna. Ogni botta che lo colpisce serve a irrobustirlo per la lotta successiva, come la fatica assidua inspessisce la pelle delle mani e ne rafforza i muscoli invece di consumarli. Così il lavoro che può escoriare le mani di una signora non produrrà nessun danno a quelle di un rude aratore. Oh, parlo per esperienza personale. C'era un tempo in cui pensavo come lei, almeno credevo, che la casa paterna e i suoi affetti fossero l'unica cosa che rendesse la vita sopportabile e che privata di questi l'esistenza dovesse diventare un peso intollerabile, ma ora non ho casa, a meno che si voglia gratificare con questo nome le due stanze d'affitto che ho a Horton, e da neppure un anno ho perduto l'ultimo e più caro dei miei congiunti. Eppure, non soltanto vivo, ma non sono completamente privo di speranze e di consolazioni anche per questa vita, benché debba riconoscere, raramente entrando in una casa anche umile alla fine della giornata e vedendo i suoi abitanti raccolti serenamente intorno al fuoco, non provi un sentimento quasi di invidia per la loro gioia domestica. Oh, lei non sa quale felicità ancora l'aspetta, dissi io. Non è che al principio del suo viaggio. La più grande felicità, rispose, è già con me, la capacità e la volontà di essere utile. Ora ci avvicinavamo a una gradinata che si congiungeva al sentiero che portava a una fattoria dove, supposi, il signor Weston si era proposto di rendersi utile, come diceva, perché subito mi salutò, oltrepassò la gradinata e prese il sentiero col suo abituale passo fermo ed elastico, lasciandomi a riflettere sulle sue parole, mentre proseguivo il cammino da sola. Avevo già saputo che aveva perduto la madre non molti mesi prima del suo arrivo. Era l'ultima persona cara che gli era rimasta e ora non aveva più nessuno. Lo compatii di tutto cuore, quasi piangevo di simpatia, e questo spiegava, secondo me, l'aria di pensosità prematura che così spesso gli offuscava la fronte e gli procurava la fama di un carattere mesto e severo presso la caritatevole signorina Murray e tutta la sua specie. Ma non è poi, pensavo, così infelice come dovrebbe essere dopo una tale perdita. Conduce una vita attiva e ha davanti a sé una vasta possibilità per rendersi utile. Può farsi degli amici e costruirsi una famiglia se vuole. E certo un giorno se la costruirà. Ma la provvidenza conceda che la sua compagna sia degna della sua scelta e che la sua casa sia felice come merita. Ah, che gioia sarebbe se... Ma lasciamo stare quel che pensavo. Ho cominciato questo libro con l'intenzione di non nascondere nulla, così le mie lettrici, volendo, potessero leggere nel cuore di una loro simile. Tuttavia in noi ci sono pensieri che comunicheremo volentieri agli angeli del cielo, ma non ai nostri fratelli in terra, neppure ai migliori e più indulgenti. Intanto i Green si erano diretti verso la loro abitazione e le Murray avevano voltato per la strada privata dove mi affrettai a raggiungerle. Trovai le due ragazze eccitate da una discussione animata sui rispettivi meriti dei due giovani ufficiali, ma appena mi vide, Rosalia troncò metà la frase per esclamare con maliziosa ilarità: «Oh, signorina Gray, finalmente arrivata! Non mi meraviglio che sia rimasta indietro tanto a lungo e non mi meraviglio che sostenga tanto accanitamente il signor Weston quando parlo male di lui. Capisco tutto ora!» «Via, signorina Murray, non dica sciocchezze», dissi tentando di ridere allegramente. «Sa che tali assurdità non hanno alcun effetto su di me». Ma ella continuò a infilare stupidaggini così insopportabili, appoggiata dalla sorella, la quale fabbricava delle menzogne coniate apposta per il caso, che credetti opportuno dire qualcosa a mia giustificazione. «Ma tutto questo non ha senso!» esclamai. «Che cosa c'è di straordinario se il signor Weston, per caso, fa per pochi metri la stessa mia strada e se per via crede bene di scambiare qualche parola? Su, su, vi assicuro che prima d'ora gli avevo parlato una sola volta». «Dove? Dove e quando?» gridarono vivacemente. «In casa di Nancy Brown». «Ah, allora è là che l'ha incontrato», esclamò Rosalia con una risata trionfante. «Ora, Matilde, ho scoperto perché è così entusiasta di andare da Nancy Brown. Va là per amoreggiare con il signor Weston». «Ah, non vi dovrei neppure rispondere. Vi ho detto che l'ho incontrato da Nancy una sola volta. E come potevo sapere che ci sarebbe andato?» Irritata com'ero delle loro folle ilarità e dalle accuse pungenti, il disagio finì presto. Quando finirono di ridere, ritornarono al capitano e al tenente, e mentre discutevano di costoro e li criticavano, la mia indignazione rapidamente sbollì. La dimenticai presto e diedi ai miei pensieri un corso più piacevole. Così attraversammo il parco ed entrammo nel castello, e mentre salivo le scale per andare in camera mia, avevo un unico pensiero in mente. E un unico desiderio mi riempiva il cuore. Entrata nella stanza e chiusa la porta, caddi in ginocchio e innalzai una fervida preghiera. «Sia fatta la tua volontà», implorai. «Tutto è possibile per te, possa essere la mia anche la tua volontà. Uomini e donne rideranno di questo voto e di questa preghiera, ma tu non mi disprezzerai», dissi e sentii che era la verità. Mi pareva di implorare per il benessere altrui almeno tanto ardentemente quanto per il mio, anzi, che quello fosse il più grande desiderio del mio cuore. Potevo ingannarmi, ma quel pensiero mi dava il coraggio di chiedere e la speranza di non chiedere invano. Quanto alle primule, ne conservai due in un bicchiere in camera mia finché non furono completamente appassite e la cameriera non le gettò via e misi i petali della terza fra le pagine della mia Bibbia. Sono ancora là. E là rimarranno per sempre.